Fabrizio Intonti. Lì e ascolti la storia di uno che ha mollato tutto per andare a vivere dall'altra parte del mondo. Sei colpito, affascinato e poi gli chiedi: scusa, ma come hai fatto con tuo marito, con il tuo fidanzato? E lei risponde: ma no, veramente io ero da sola. Poi incontri un altro che ha lasciato un lavoro sicuro, ha cambiato tutto per inseguire una sua passione, cercando la felicità anche a rischio di guadagnare di meno. Tu lo ammiri e gli dici: scusa, ma tua moglie come l'ha presa? E lui dice: beh, veramente io ero da solo. Allora trovi un altro e quello ti dice che stava in vacanza in un posto e ha deciso di non tornare più perché lì stava benissimo, quindi ha lasciato casa e ha cambiato tutto. E tu gli dici: scusa, ma la famiglia, i rapporti di coppia? E quello sai che ti dice? Beh, ero single. Allora ti viene un dubbio: ma non è che questi giri di vita, questo mollare tutto, questa gente che cambia vita e fa delle cose meravigliose, sono tutti single e questa cosa non si può fare se hai un marito, se hai una moglie, se hai un rapporto? Ecco, oggi parliamo di questo. Se avete cambiato vita in due, se ci state pensando, se ci avete provato, 800 24 00 24. A me non mi fregate. Io vivo bene, benissimo. Come faccio? Sono single, single convinto. E adesso vi spiego i vantaggi di questa vita. Avete presente non dover rendere conto a nessuno? Ecco, questo è il primo vero vantaggio. Ho voglia di correre? E corro. Ho voglia improvvisamente di correre indietro? E corro indietro. Mi viene voglia di stare un'ora a salutare i passeggeri di un aereo che vanno chissà dove? Ciao, ciao aeroplanino! E li saluto. E poi voglio fare una cosa, la faccio. Voglio pensare una cosa, la penso. C'ho sonno, vo' a letto. Allora, questo è il dubbio di oggi. La domanda: ha ragione Pieraccioni o no? Cioè, se uno è single può fare tutta una serie di cose, può anche cambiare vita, e se uno è sposato invece no, deve stare attento, deve aver sempre la paura che cambiando vita perderà l'altra persona, magari ha proprio paura che l'altra persona sia proprio quella che gli impedirà di concretizzare un progetto. 9 minuti dopo le 4 del pomeriggio, io sono Achille Corea, questo è Giro di Vita, il programma che ogni giorno vi racconta storie di chi ha cambiato tutto e si è inventato un nuovo inizio. E allora oggi ci chiediamo se cambiare vita è roba da single e cerchiamo persone che l'hanno fatto pur essendo in due, essendo in coppia, avendo un matrimonio, una famiglia, dei figli, un cane, insomma tutta una serie di legami che uno o lascia o si porta dall'altra parte. E partiamo da un messaggio bello che abbiamo ricevuto qualche giorno fa su Facebook. Bianca Maria ci ha scritto: mi piace questa trasmissione perché mi fa ricordare quando stavo dietro alla scrivania con le unghie laccate, con l'orologio al polso per cronometrare i tempi del lavoro. Adesso le mani nell'argilla, non so più dove ho messo l'orologio, sono più povera di prima, ma che pace interiore. Bianca Maria, benvenuta. Ciao. Allora, tu ci hai lasciato questo messaggio da cui abbiamo capito che una volta avevi un lavoro di concetto, come si dice, in ufficio. Che lavoro era? Sì, era un lavoro, inizialmente come segretaria, poi sono andata a finire a vendere software, poi sono andata a fare ancora cose ancora più serie, sempre più con unghie laccate e tailleur e scarpe, tutta sempre vestita a modino come si fa per queste occasioni, e basta. Poi a un certo punto ha mollato. Per quanti anni hai fatto i lavori quelli da scrivania e unghie laccate? Da scrivania e unghie laccate un 15-20 anni. Dopodiché poi a me è sempre pesato molto lo stress, devo dire. E cosa hai deciso di fare per cambiare completamente vita? Per cambiare completamente vita, di seguire un uomo. No, in effetti è stato quello che mio marito aveva cominciato piano piano sotto a fare. E io ho detto: ah, caspita, una bella cosa questa, dico, perché in effetti ti dà un qualcosa di diverso. Che cos'è? Dici materialmente, cosa fai materialmente adesso? Materialmente è quella di aprire un laboratorio di terrecotte, un laboratorio artigianale di terrecotte. Quindi tu adesso plasmi l'argilla insieme a tuo marito, come in Ghost. Come... Aiuto, non me l'aspettavo questo da te. Come Patrick Swayze. Vabbè, però facciamo così, sentiamo anche la versione del marito. Riccardo, pronto? Hola, sto ridendo per Ghost. Ciao a tutti. Sì. Allora, voi, ecco, noi abbiamo, l'abbiamo scoperto dopo, cioè noi abbiamo richiamato Bianca per questa storia del passaggio dal lavoro alla scrivania al lavoro con la ceramica, con le mani, e abbiamo scoperto che l'avete fatto in due. Tu prima cosa facevi? Io prima facevo il product manager in un'azienda farmaceutica per 14 anni, non avevo le unghie laccate per fortuna, però c'avevo la cravatta, la giacca e bla bla bla bla. Come si fa a passare, cioè, da quel mondo a questo? Guarda, io credo, la risposta non ce l'ho sinceramente, non me lo sono mai chiesto. Se mi consenti una battuta, io incontrai un giorno durante una manifestazione Dario Fo e Franca Rame, e Franca Rame mi guardò e mi disse: lei se l'è sognato questo lavoro, no? E probabilmente me lo sono sognato, ecco, diciamo così, perché non credo ci siano delle ricette o delle formule magiche. Che hai iniziato prima? E che improvvisamente riesci, è un sogno, no? È qualcosa che tu... non Riccardo, chi hai iniziato prima? Ho iniziato io, dopodiché, visto che il lavoro funzionava, comunque c'era spazio per, ho coinvolto anche l'allora impiegata con le unghie rosse, per temporaneamente, part-time, diciamo, quindi sabati, le domeniche, e dopodiché il coinvolgimento è stato totale. E, ecco, se mi consenti, volevo, a proposito del fatto di Pieraccioni, credo che il sentimento prevalga nelle scelte, cioè bisogna essere molto uniti, molto affrancati, per poi poter condividere una cosa del genere. Voglio dirti di più, e magari sbaglio, però sulla mia pelle l'ho fatto: a prescindere da quello che vai a fare, se alla base c'è un sentimento sano, forte, il lavoro insieme lo cementa. Cioè, concludo, io ho molta, voglio bene a mia moglie, chiaramente dopo 30 anni, ma ho molta considerazione di lei, e forse è questo quello che manca in molte persone che cominciano un'attività. Ho capito, cioè, è un po' come Fantozzi che diceva alla Pina: ti stimo tantissimo, però questa è in aggiunta, ti amo e ti stimo tantissimo, non è solo né ti sono amo. Sono due sentimenti, no? La stima e l'amore. Bianca, volevo sapere dal lato tuo com'è stato passare invece a lavorare insieme, a mettere su un'attività. Avete avuto un po' di paura insomma, che questa esposizione eccessiva provocasse anche qualche ricaduta negativa? Paura dopo, nel senso che all'inizio parti perché sei molto esaltato, sei molto sicuro di te, e poi è molto divertente, devo dire. In due è un po' come ritrovarsi, a proposito di film tipo Amici miei, insieme a fare una cosa che ti piace, ci provi gusto, ti diverti, e non sei tu da solo di fronte agli altri, ma sei tu e tuo marito, comunque tuo compagno, di fronte agli altri, no? In tutto e per tutto, quindi la paura viene dimezzata. Voi siete anche casa e bottega, so, avete laboratorio. Sì, alla fine sì, siamo riusciti, perché abbiamo deciso che effettivamente, anche tecnicamente, insomma, era meglio avere casa e laboratorio insieme, proprio perché decisamente viviamo 24 ore su 24, lavoriamo insieme. Ci sono sì discussioni ogni tanto, cose così, però è molto molto meglio secondo me lavorare in due, avendo anche due modi di lavorare separati, perché lui c'è una divisione dei compiti, in un certo senso sì, dall'altra invece c'è una comunione di idee. C'è quello che si diceva, no? E Riccardo, dimmi una cosa, invece i compiti, quelli casalinghi, a chi sono rimasti? Chi la fa la spesa? Chi... No, sono la spesa io, perché a me piace tantissimo. Comunque sono sinergiche le cose, no? Cioè ci dividiamo bene, sia il domestico che il lavorativo, cioè non abbiamo, secondo me non abbiamo dei confini precisi, no? Ognuno cerca di rompere le balle all'altro, nella misura in cui si litiga per lavoro, perché uno la vede in una maniera e uno la vede nell'altra, ma poi si è uniti, cioè sono forze che si uniscono e danno come risultato un prodotto piuttosto che un'idea. Piuttosto che... Si litiga per lavoro, ma poi si sta insieme come marito e moglie. Noi vi richiediamo due consigli per gli ascoltatori interessati a questa cosa. La valigia e la zavorra. Allora, la valigia e la zavorra, ovvero una cosa da portarsi dietro cambiando vita, in questo caso in due, una cosa da lasciare. Chi mi dice cosa bisogna portarsi dietro? Bianca, lo dici tu? Dove sei? No, tu vai. Da portarsi dietro l'esperienza. L'esperienza non, precedente. Non gettarla mai. Cioè, ciò che si è fatto, a prescindere da quello che si andrà a fare, è importantissimo. E che cosa bisogna lasciare a questo punto, Bianca? Lasciare lo stress, assolutamente, che è la cosa, secondo me, più che ti devi lasciare dietro. E tutte quelle idee che si fanno perché tu devi fare un certo tipo di lavoro, perché devi apparire in un certo modo, devi essere in un altro, cioè tutte quelle apparenze le devi lasciare indietro. E se posso aggiungere io una cosa in valigia, essere te stesso e basta, che è la cosa più bella di questo mondo. Perfetto, io ringrazio Bianca e Riccardo Ferri, ricordo anche il loro sito per i curiosi, appenasfornati.com. Tre motivi per avviare un'attività in coppia. Lui non potrà telefonarvi e dire «Faccio tardi, ho una riunione». Non avrete difficoltà a far coincidere le vostre ferie. Non sarà un problema se andate a letto con il capo. Tre motivi per non farlo. Tornando a casa troverete quello che vi ha negato l'aumento. Ogni cena rischia di diventare una riunione di lavoro. Non potrete più spettegolare sul vostro collega. E noi ovviamente cerchiamo di sdrammatizzare un pochino, di scherzare, di capire quali sono i pro e quali sono i contro, però diteceli voi, 800 24 0024, se avete fatto un cambio di vita in due oppure se ci state provando. E se lo facessi io? Giro di vita in coppia, lo chiediamo però in questo caso, prima di passare ai nostri ascoltatori, a qualcuno che per mestiere si occupa di coppie, si occupa di problemi di coppia, il dottor Walter Lagatta, che è uno psicoterapeuta. Benvenuto, buon pomeriggio. Grazie molte a voi e a tutti coloro che ci ascoltano. Allora, dottore, cambiare in due, noi finora abbiamo visto tantissimi che cambiano da soli e insomma vivono anche un po' una liberazione, invece cambiare intanto convincendo l'altra persona, visto che di solito l'idea viene uno dei due. Beh sì, probabilmente l'idea viene espressa principalmente da una soltanto delle due persone che compongono la coppia, ma naturalmente quando poi la decisione è veramente forte e radicale deve essere pienamente condivisa. Quindi direi che in questo caso, quando la coppia è veramente molto forte, può anche sicuramente mettersi in gioco per poter cambiare vita, no? Il cambiamento è qualcosa che comunque nutre lo stare insieme e quindi magari avere un nuovo progetto può essere il cemento che rende ancora più forte questa coppia. Qual è, diciamo, secondo lei il modo migliore per cominciare a parlarne in una coppia? Ma beh, intanto aveva detto che questo genere di scelte, queste decisioni, è vero che emergono da uno dei due, ma naturalmente hanno avuto già nutrimento nel discorso fatto già con molte altre situazioni insieme al proprio alla propria partner. E quindi non credo che ci voglia un modo speciale per dirlo, se non il modo speciale con cui si dicono tutte le cose. Una coppia forte, una coppia come quella che abbiamo appena ascoltato, che sta insieme da tanti anni, è abituata a prendere decisioni che coinvolgono entrambi e è abituata soprattutto a risolvere i problemi per rendere stabile la coppia. Quindi direi che non va detto in un modo speciale, va detto nel modo in cui in una coppia speciale tutto viene detto. Dottore, a spanne, può essere il cambiare vita in coppia anche un modo per risollevare un po' una situazione di coppia che comincia a mostrare dei segni di crisi? Questo purtroppo no, devo dire che non è una buona terapia. Non è una buona terapia e lo vedo tanto simile alle coppie che poi arrivano da me e che magari per tentare di risolvere la propria crisi hanno pensato bene di avere un bimbo o una bimba. No, prima occorre un progetto condiviso, poi occorre una stabilità di coppia e poi si realizza il progetto. Avere un bambino oppure cambiare vita ma senza sapere bene che cosa ci aspettiamo da tutto questo non serve a rinforzare la coppia, ma probabilmente la farà esplodere di lì a poco, perché i problemi sono grossi, insomma, non possiamo illudere l'altro che andando a vivere si possa risolvere, insomma, no, qualcosa. No, no. La coppia deve essere salda dal momento in cui prepara la valigia. Ecco, allora io cito anche il suo sito internet, che è ilsessoelamore.it, e ringrazio il dottor Walter Alagatta per essere stato con noi a Giro di Vita. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. E allora, avete mai detto vieni via con me, vieni via di qui a qualcuno? E quello vi ha detto sì, vi ha detto no. 800 24 00 24, parliamo di cambiare vita, ma questa volta in coppia. Io però volevo sentire la storia di Francesca, pronto? Ciao. Francesca, che è italiana ma vive in Spagna, da quanto tempo? Ma diciamo che il nostro progetto è iniziato più o meno 7-8 anni fa. E all'inizio facevo un po' di nomadismo, un po' Italia, un po' Spagna, e da 5 anni viviamo più o meno qua, anche se il mio compagno continua a fare ancora spola con l'Italia. Quindi tu sei in Spagna, e lui fa avanti e indietro? Praticamente sì. Che cosa fate anche se in questo Spagna? Momento sta qui per 3 mesi di vacanza estiva. Che cosa facevate in Italia e che cosa fate in Spagna? Ma in realtà io, insomma, ho un curriculum un po' vasto, insomma vario, diciamo. Ho fatto varie esperienze, iniziando come psicomotricista, professore di educazione fisica, insomma, per spostarmi poi a lavorare in altri ambienti che erano quelli della musica, così eccetera. Ma in un momento, c'è stato un momento in cui, diciamo, che era un po'... non mi stavo cercando in qualche modo, no? Stavo cercando una strada, qualcosa da fare, e in realtà è venuto fuori questo progetto che il mio compagno aveva già da prima, insomma, in qualche modo. Ma scusa, il progetto lo gestisci tu se lui va avanti e indietro? Sì, praticamente sì, diciamo che il posto lo conosceva lui da tanto tempo, perché ci veniva qua in vacanza e aveva in cuor suo questa idea di un giorno all'altro venire a vivere qui. Non abbiamo ancora detto dov'è il posto di preciso e che cosa il fate? Il posto è in provincia di Cadiz. Io ho un negozio in un paesino, così, diciamo, che lavoro per stagione, perché fondamentalmente è un posto di turismo davanti all'oceano, al mare, quindi fondamentalmente turistico, e abbiamo il progetto, cioè stiamo lavorando su un progetto di cercare di montare su una cosa di affitto di case per le vacanze, insomma, stiamo un po' continuando a lavorare. Ma scusa, per far sì che questo progetto diventi... L'obiettivo è anche che tuo marito rimanga a vivere in Spagna per sempre? Certo. Avete figli? Sì. Abbiamo una figlia, sì, per questo diciamo che io un po' faccio la base qui, con la bambina che vive qui, frequenta la scuola, eccetera, e lui fa un po' avanti e indietro. Qual è lo stimolo? Qual è la cosa che avete trovato lì e che non avete qua? Ma in realtà io, insomma, non lo so, io qui diciamo che sono come molto più in pace con me stessa che quando stavo in una grande città come Roma. Probabilmente è la mia indole, cioè il fatto di stare in un posto dove c'è tanta natura, dove la natura è così forte, dove c'è l'oceano davanti, vedo dalla costa, vedo il Marocco, il fatto che cominci un continente da lì mi dà molta serenità e anche molta carica. E poi diciamo che è una scelta di vita riguardo alla qualità della vita, perché comunque vivendo in un centro piccolo tutto diventa a dimensione più umana, e per se qualche volta abbiamo avuto dei dubbi rispetto a noi, rispetto a dire abbiamo fatto la cosa giusta o no, anche se in realtà siamo contenti di quello che abbiamo fatto, sicuramente rispetto a nostra figlia siamo felici, perché comunque lei qua cresce in una dimensione che è totalmente differente da quella di una grande città. Senti, io sento anche un bellissimo accento spagnolo che tu ormai hai. Sì, la mia famiglia mi rimprovera sempre, mi dice sempre: ma come parli? Ma tu non ce l'hai, non senti la mancanza dell'Italia e di quello che avevi qua? Ma guarda, assolutamente, perché io sono siciliana, io sono andata via da casa quando avevo 25 anni più o meno, quindi io credo che una volta che tu te ne vai via da casa tua, dalla tua radice, dal tuo posto, dal posto dove sei nata, e per me questo è tanto, perché io sono siciliana, insomma, per cui per me questo, insomma, significa veramente le radici, la cosa forte, penso che puoi andare dappertutto. Oppure, non lo so, sono io che... Senti, io ho un piccolo dubbio, perché sto cominciando a vedere delle cose in comune, nelle storie che sentiamo. Sicilia, Roma, Cadice, non è che hai cercato un'altra Sicilia in un posto che un po' ci somiglia come quella parte della Spagna? Beh, probabilmente. Io qua mi sento profondamente a casa mia, perché comunque la cultura, la gente, il posto, la luce, i colori, i sapori sono molto simili a quelli della Sicilia. Probabilmente in fondo c'è una parte di verità in quello che dici, nel senso che comunque la Sicilia ha una storia molto forte, anche drammatica se vuoi, per cui da una parte ti liberi di quella parte lì e qui prendi solo la parte bella, no? In qualche modo, perché non essendo comunque le tue radici, il tuo posto, insomma, la vivi con una leggerezza differente, no? Rispetto a quello che la Sicilia, insomma, è stato per me o continua ad essere per me. Perfetto, grazie Francesca, buona Spagna, buona vita. 800 24 00 24, Antonio, pronto? Salve. Ciao. Antonio, tu hai cambiato in due o in più di due? In sei. In sei. Tu, tua moglie e quattro figli. Sì. Cosa hai fatto? Niente, io ero un artigiano, cioè sono un artigiano e lavoravo con la mia famiglia. Abbiamo fatto una bella azienda grande, cioè che esiste ancora, che comunque è l'azienda di famiglia. E dopo varie cose, vari problemi, le solite cose societarie, insomma, ho deciso che non era più il caso di continuare, di essere libero, insomma. E cosa fai adesso? Faccio qualcosa di simile, cambiando gli articoli, cercando di stare fuori, cioè di non fare concorrenza ai miei familiari, insomma, che vorrei restare perlomeno in buoni rapporti con loro. Quindi hai cambiato lavoro, hai cambiato zona d'Italia? Sì, sono dalla Campania nel Molise, non è molto distante, però sono in un'altra regione, un'altra realtà piccola, perché il Molise è piccolo come anche come Roma. Cioè, sto cercando di fare questa cosa per i miei figli, diciamo. Sinteticamente, sei contento? Sì, cioè, naturalmente quando cambi così radicalmente c'è qualcosa che non va, però è bella la vita perché è così. E varia. Sì. Grazie Antonio. Sì, ciao, noi siamo in chiusura, grazie Antonio. Allora, eccolo qua. Noi arriviamo a chiudere anche oggi. Abbiamo parlato di cambi in due. Io ringrazio Fabrizio Intonti che mi accompagna sempre. Ringrazio Alessandro Chiappini che si è occupato della parte tecnica. E oggi mi è sembrato di capire che cambiare in due si può e a volte fa bene. Se in questi 21 minuti avete avuto la stessa impressione anche voi, allora sono stati 21 minuti spesi bene. Ciao a tutti da Achille Corea, a domani, buona vita. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.